Yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Buonasera, buonasera. Eccoci. Siamo le ribelli, siamo tornate. Siamo ufficialmente tornate. Oggi è domenica 28 novembre e siamo in radio io, Gioia, che ovviamente non mi si vede, Ivna, e in collegamento abbiamo Giulia. Ciao, ciao a tutte e tutti. Ciao. Allora, io intanto spero che la tecnologia ci supporti, perché ovviamente siamo conosciute per non avere molta dimestichezza tecnologica, specialmente io. No, io sono ancora peggio, figurati. Stai tranquilla. Tra l'altro, appunto, con queste nuove tecnologie che abbiamo introdotto in radio, iperspaziali, non so ancora bene ambientarmi e tocchicciare, e quindi spero anche che Giulia si senta effettivamente in radio, perché non so se il volume è a posto. Quindi scriveteci se esatto. Sembra che io sia una pazza che parli da sola o se Ivna sembra una pazza che parla da sola. Giulia è con noi e scriveteci se non si sente un tubo. Esatto, abbiamo bisogno dei vostri feedback. Sì, questa è la voce da Edimburgo. Va bene, finiamo di ascoltare questa super sigla. Ni una menos, cabrón, ni una menos. Come promesso, rieccoci. Eccoci. Bene, possiamo introdurre la puntata di oggi. Una super puntata. Emozionatissime, oserei dire, perché appunto torniamo dopo un po' di mesi. Una puntata dedicata alla maternità. In questi mesi sono successe delle cose. Esatto, qualche ribelle è diventata mamma e personalmente non lo sono, però mi ha fatto molto piacere collaborare anche per introdurre l'ospite di oggi, che è Maris, conosciuta grazie al mio lavoro, che è l'insegnamento della lingua italiana e inglese, e Maris anche lei è stata un'insegnante di italiano ed è con noi però perché da poco ha cambiato un pochino i suoi progetti, anche lavorativi, e quindi ha iniziato a un podcast dedicato proprio alle mamme. Quindi Maris, ci sei? Ciao, ci sono, ciao a tutti. Ciao Maris. Grazie per l'invito. Ciao. Grazie a te. Quindi in questa puntata andremo a affrontare una serie di tematiche dedicate appunto alla maternità. Come diciamo nella scaletta, il tema un po' che lega la puntata è le mie scelte sono affari miei. Molto, affari miei. Ivna, perché abbiamo scelto questo titolo? No, ciao a tutti, tutto e a todos. stiamo scegliendo una tematica che secondo me, appunto anche secondo tante persone che stanno vivendo questa esperienza capovolgente, diciamo così, che è la maternità. E lì, secondo me, la tematica risale al concetto di maternità. Cos'è la maternità in ogni cultura, per ogni persona che poi diventa madre, poi lì diventandolo, abbiamo anche 1000 terminologie per le nuove famiglie e per le nuove configurazioni di non più una maternità, ma una parentalità, diciamola chiara già dall'inizio. Certo. Perché c'è bisogno di parlare di questa tematica e abbiamo scelto oggi Maris, che ci darà anche non più parlare della tematica, ma anche di cambiare i nostri atteggiamenti verso la maternità. È un richiamo alle mamme, appunto, per comprendere per se stesse cos'è questo nuovo processo nella vita e appunto vivendo ragazze nella società contemporanea odierna abbiamo anche bisogno di imparare nuovi atteggiamenti, nuove abitudini. Insomma, solo lascio tantissime cose da dire. E niente, direi che la puntata si svilupperà in tre parti. Parleremo un po' delle aspettative sociali, un tema che riguarda tutto, diciamo. Poi parleremo degli stereotipi, dell'identità, di tutte le identità possibili. E poi Maris appunto ci parlerà un pochino di più del suo progetto su come trovare tempo per se stessi. Che dice la DJ? Mettiamo una canzoncina. Allora, la DJ in realtà deve ricordare che dobbiamo ricordare agli ascoltatori, le nostre ascoltatrici e a un nostro ascoltatore. Ok, sì. Tutti i canali con cui contattarci, ascoltarci o riascoltarci e likearci. Esatto. questo è il nuovo linguaggio. Grazie. Per allora potete scriverci direttamente al canale Telegram cercando chiocciola radiozam trattino basso chat. Potete scrivere se no anche al nostro canale delle ribelli su Instagram, le-ribelli-zam, oppure potete anche semplicemente mettere un like alla pagina e potete riascoltare poi il podcast sul sito di Zam, che è appunto lo spazio sociale che ospita il programma, come tantissimi altri bellissimi programmi. E ci trovate sotto www.zam-milano.it, dove appunto ci sono tutte le registrazioni, tutti i podcast di ogni puntata e di ogni programma. Eccoci. Perfetto. Quindi adesso Ivna, vuoi annunciare la prossima canzone? Ecco, questa è una canzone che è già una provocazione di per sé. Andate a vedere il video, mi raccomando, maggioreni, già che ormai insomma, devo anche pensare alle programmazioni adatte o meno. Ma Carol Conká è una grandissima brasiliana cantante che ci invita a goderci la vita. Ecco, è molto importante godere la vita. Allora, godiamocela. Moleque mimado bolado que agora chora Só porque eu mandei ajoelhar fazer um lalá por várias horas Ele disse por aí que era o tal pegar geral e apavora Seduzi pra conferir e percebi que era da boca pra fora É, dá pra perceber desses tem vários Falam demais, finge que faz, chega a ser hilário Mal sabe a diferença de um clitóris pra um ovário Dedilham ao contrário, egoístas criando um orgasmo imaginário Pouco importa pra ele se você também tá satisfeita Esses caras ainda não aprenderam que 10 minutos é desfeita Meia bomba que tomba, não aguento o molejo da lomba Se desmonta, tem medo e no final só me desaponta Já fico arrependida, seca, desacreditada e fria Desse jeito desanima, quero ser bem atendida O que me anima é habilidade na lambida Malícia, muita saliva enquanto eu queimo uma sativa Inacreditável, eles ficam sem ação Quando a gente sabe o que quer e já mete a pressão Tem que saber fazer senão, gera contradição Direitos de prazer iguais, mas compreensão Isso daqui não tá de enfeite, dá um jeito, se ajeite Sem ser fake, então vai se deite Se eu quero, respeite O clima deixa de ser quente, confundiu minha mente Falam demais quando chega na hora a ação não é equivalente Nem vem, sou apenas mais uma com experiência Sabe quem tem? Vejo vários convencidos achando que no final mandou bem Minhas amigas concordam também. Vocês podem ir mais além. Sem dedicação, espantam um aré. Curvem-se, encostem os lábios na flor. Quebra esse tabu, isso não é nenhum favor. É. O que me anima é habilidade na lambida, malícia, montar saliva enquanto eu queimo uma sativa. La la la la. Intensa. ci è piaciuta. Molto danzereccia, sì, questo sì. Sicuramente. E a proposito delle musiche, oggi abbiamo musiche un po' varie, perché molto questa puntata varie. Comprende un po' di stati, è una puntata molto internazionale, sono molto felice, perché diciamo, insomma, io sono italiana ma vivo all'estero, e invece Siamar e Skeivna hanno scelto di fare dell'Italia la loro casa, quindi ci siamo un po' scambiate. Quindi Ivna ha proposto canzoni brasiliane, giusto? Sì. E invece Maris ha proposto canzoni estone, perché appunto questi sono i loro luoghi d'origine, e entrambe direi che sì, poi ci ho provato a mettere gioia, un senso unico, un po' omogeneo. Qualcosa ho dovuto lasciarlo no, da giusto, parte, però... ma lo riprenderemo. No, penso è un bel mix. Sì, sì. E infatti parleremo anche un po' anche di come essere una mamma expat in Italia, anche sì. Le aspettative da questo punto di vista. E mentre andava la canzone ho fatto una domanda a Gioia, che può aiutarci a introdurre l'argomento. Oddio. Ed era, ti hanno già chiesto se... quando avrai figli? Allora, non si può vedere in radio, ma tipo quando mi ha fatto questa domanda nel backstage, tipo i miei occhi sono ingranditi come tipo quelli cosa? Di un cerbiatto che viene sparaflesciato al buio nel bosco, che sta per essere investito, proprio la sensazione è stata quella. Sì, ma è un po' questa la sensazione secondo me che si prova... quando ancora gli stereotipi di genere sono così forti sulla nostra società, è veramente, non puoi fare, infatti è una cosa che abbiamo parlato in precedenza per organizzando il programma, non puoi essere, cioè soltanto essere, capito? Lasciata in pace a vivere una bella vita, come la giudichi tu bella, no? Mm-hmm. Devi rispondere a delle domande della gente, così. Sempre. Anche perché non si tratta di un gelato, allora quando lo mangi il gelato? Infatti, Infatti qualcuno esatto. chiede, che ne so, a mio fratello, cioè quando viene... No, ormai raga, mia mamma è a livelli alti, quindi questa domanda l'ha già fatta pure mio fratello. Quando avrà okay. una famiglia... Cioè, ma veramente... No. Certo, perché poi non è soltanto sicuramente più forte dal punto di vista femminile, però sì. comprende un po' tutti, insomma, sì, soprattutto nella fascia di età, verso i 30 anni o superati i 30 anni, quando iniziano anche a dire a una donna, ma guarda che c'è una data di scadenza, Madonna. Guarda che devi stare attenta se... se vuoi un figlio, e a volte viene detto dando per scontato che una persona lo voglia. Esatto! Cioè, e questa è la cosa più imbarazzante, secondo me. Cioè, dai per scontato una cosa che, insomma, è personalissima. È molto intima. No? È come chiedere, ma oggi che colore di mutande hai? Tu, ma ti interessa? Oppure cioè... hai fatto il bidet. Esatto! Sì, il bidet sì. l'abbiamo fatto. L'abbiamo, comunque sì, raga. Almeno voi ce l'avete. Vabbè, chiudiamo il discorso. Non usciamo dal... Non perdiamoci subito. Lasciamo i bagni almeno in pace. Esatto, chiudiamo la porta del bagno e torniamo a noi. No, no, dicevamo che appunto quando ci siamo trovate io, Maris e Ivna a preparare la puntata è emerso molto questa parte, no? legata alle aspettative, agli stereotipi. Io ho condiviso anche un'esperienza. Quando dissi che mi volevo trasferire all'estero, c'è stato comunque qualcuno che mi ha detto: ma come fai coi bambini? Io ho detto: ma scusate, ma che bambini? Cioè, dove sono? Ma cioè, quali bambini? Scusate. Perché l'idea era che, visto che mi sarei trasferita col mio compagno, fondamentalmente avrei dovuto pensare a come gestire i futuri figli o figlie avendo i miei genitori lontani. E non si poteva neanche... Cioè, prendere in considerazione l'idea che io mi spostassi semplicemente per fare un'esperienza di vita all'estero con il mio compagno, senza bisogno di pensare. Volendo nemmeno pensare. Non volendo neanche pensare, cioè... a questa cosa. E qui volevo un po' chiedere appunto sia a Maris che a Ivna invece come è stato dal vostro punto di vista, cioè come donne che si sono trasferite in Italia da altri paesi, se avete notato una differenza dal punto di vista delle aspettative sociali tra il vostro paese e l'Italia, e anche come un po' siete state, forse, non so, etichettate come donne straniere nel nostro paese. Etichettate non direi. Ok. Però sicuramente si sente la mancanza dell'aiuto della famiglia, perché io ho i miei genitori lontani e anche, diciamo, i nonni paterni sono lontani, sono italiani ma vivono dall'altra parte dell'Italia, non vivono vicino a noi. Quindi l'unica soluzione è quella di trovare una babysitter o gli amici che possono aiutare. E in questo senso penso che la rete sia fondamentale tra le mamme, insomma, anche appunto essendo anch'io straniera, a me è stato dato un'etichetta, cioè ragazzi, due settimane fa stavo uscendo, appunto mio padre è riuscito a venire come cittadino europeo, perché sennò tutti i voli nel Brasile bloccati, proprio, insomma, ha fatto mille test, quarantene varie. Andiamo a fare un giro, mi chiedo: ma è questa la... incontro una signora che incontro sempre, però ha già i suoi 80 anni, e lei mi chiede, mi ha visto sempre con mia figlia, appunto sono mamma diventata da ormai 6 mesi, e dice: ma è questa la bambina che curi? E lì no, io ho detto: no signora, guardi che questa l'ho tenuta dentro 9 mesi, cioè è mia al 100% proprio, mamma mia. Però sono anche, diciamo, appunto parlando di stereotipi, di aspettative sociali, ecco, non mi vedevo straniera, ecco, stavo soltanto andando con mia figlia fuori, certo, e questa cosa appunto di nuovo si apre, che ne so, tutto un discorsone sulle maternità, perché sì, anche sui corpi, sulla razzializzazione, insomma, ancora un senso di colonialismo che ci abbiamo ancora, certo, e di cui Jamai sicuramente ha parlato meglio di me in altre puntate. Parlando di ciò, riascoltate le altre puntate, raga, veramente, infatti vale la pena. Potete sempre andare sul sito di Zan, www, e riascoltarle lì. Basta, finito. No, è giusto, perché comunque molto spesso le nostre puntate vanno a collegarsi anche tra di loro, perché a volte diamo degli spunti che poi sono stati approfonditi già in altri episodi, quindi è bene ricollegarsi anche da questo punto di vista. E niente, allora un po' questa è la mia esperienza come appunto donna che non ha figli o figlie, e queste sono un po' le aspettative che personalmente ho vissuto avendo appunto 31 anni. Però parlando è venuto fuori che le aspettative non si fermano al pre, ma continuano. Ci sono sempre. Durante, dopo. Esatto, non c'è una fine, no? Il giudizio non si ferma, cioè è una cosa che dobbiamo più che altro allenare i nostri cervelli a lasciare andare le persone, cioè veramente è un esercizio, mi viene da dire zen. Inspira, lascia andare il giudizio, lascia andare l'altro stare, vai, segui la vita. Ma no. Fatti li cazzi tua. Esatto. Esattamente. Qual è stata la vostra esperienza nel durante? Durante la gravidanza? Sempre i consigli. Gli altri sanno sempre meglio come mangiare, che cosa fare, come è stato il parto. Tutti vogliono condividere le loro storie del parto, anche se, non so, secondo me è meglio non far paura. Eh sì, no, io pure ho notato questo, Maris. C'è una paura instaurata riguardo al parto. Ed è, cioè, da un lato capisco chi non l'ha vissuto per mai, cioè all'inizio, non, appunto, all'inizio della gravidanza pensavo, ma arriverà una fine, no? Cioè, ci sarà quel passaggio, diciamo così. E, però, lungo la gravidanza pensavo, ok, ma è fattibile, cioè posso fidarmi del mio corpo e dei suoi millenni di evoluzione per arrivare a questa cosa qua. Poi mi fido anche della medicina, non l'eccessiva, ma quella nel momento giusto, per i motivi giusti, ecco. Quindi è andata, cioè nel senso, però ho visto questa cosa con altre mamme nel corso preparto, che il parto di per sé era un tipo, come affrontare il dolore, la paura, e queste sono le riflessioni che ho fatto nel durante, appunto, io mi devo fidare del mio corpo, e questa cosa mi sono messa in testa proprio inchiodata, no? Perché mi veniva da dire, ma devo dubitare di me stessa, devo dubitare del mio corpo, devo dubitare di quel momento non andrà a buon fine. Cioè, se già penso così, non mi rilasso nemmeno. Ma poi figuriamoci che essere una creatura. per non parlare di... Però è stato, ho vissuto su di me, ma ho visto anche questo, ho vissuto della paura, ecco. Non lo so. Poi io mi sono detta, non ho mai visto una donna incinta per tutta la vita, quindi per essere razionale finirà, quindi in un modo o in un altro. Questo è un'ottima osservazione. Quindi gli altri possono raccontare storie che vogliono, però alla fine ognuno alla propria esperienza. Io durante la gravidanza ho praticato yoga, ho ascoltato delle meditazioni che mi hanno aiutato tantissimo. Certo, sì, sì, ogni esperienza è diversa ed è proprio questo che spesso viene dimenticato. Chi ha sempre qualcosa da dirti, dimentica che la sua esperienza può essere diversa dalla tua, perché il tuo corpo è diverso e anche l'ambiente in cui vivi è diverso, quindi sicuramente ci sono delle cose uguali per tutte, però anche lo stato fisico e mentale di una persona non sarà mai uguale ad un altro, quindi anche chi si annovera il diritto, che si prende il diritto di dirti sempre cosa devi fare, forse dovrebbe tacere. Forse. e qui si apre un po' tutto un altro discorso invece sull'identità nel momento in cui mamma si diventa. Vogliamo rimandarla dopo una canzone? Una canzoncina per alleviarci. Sì. Va bene. Ci sono. Allora, adesso ascoltiamo Girls and Boys dei Blur. Girls and Boys. Eccoci tornate. Eccoci. Quindi adesso ci guardiamo così negli occhi. No, ci guardiamo perché nella pausa dicevamo ci sono un sacco di cose da dire, cerchiamo di dirle in modo collegato. Infatti cioè sulla maternità veramente dovremo continuare delle puntate perché ci sarà sempre una cosa nuova e questa è già una conclusione. Sia riguardo al trovare se stesse che trovare l'altro, perché è un dialogo costante con questo altro essere che è lì davanti a te. E questo parlando appunto già al momento della gestazione, è la pazzia che ti viene perché stai generando una vita dentro di te, cioè a volte sembra un alien, a volte ti dice ok è mia figlia, è mio figlio, no? Va tutto bene. E non è facile appunto tra tutti questi questionamenti già di per sé filosofici fino all'ultimo filo, la struttura della società nella quale viviamo, ecco. Quindi sei sempre lì tra te e il mondo e il mondo di qualcun altro che sorge, no? È un po' sul punto in cui mi trovo oggi. No, infatti dici oggi ed è giusto perché secondo me la maternità è proprio un percorso. Non so se avete sentito un termine che assomiglia ad adolescenza, matrescenza, in inglese matrescence. Quindi è diventare la mamma è proprio un percorso, un momento, non è un momento preciso, ma è una cosa più complessa. È il giorno per giorno. Esatto, è mentale ma anche fisico, perché il tuo corpo cambia, e gli ormoni fanno quello che vogliono, come da adolescenti, no? Diventiamo dai bambini adulto. Sì, non avevo mai sentito, cioè avevo sentito questo termine perché l'ho visto nei tuoi contenuti, ma prima di scoprirlo da te non l'avevo mai sentito. Sì. Secondo te perché non se ne parla? È strano perché non se ne parla di tante cose. È vero, perché, verissimo. È perché nei corsi preparto si parlano delle cose pratiche, ma almeno nel mio caso nessuno mi ha parlato dell'esperienza mentale, i problemi che puoi avere a livello emotivo, dei dinami. I nuovi rapporti nella coppia, nella vita di coppia. Ma pensi che sia così perché è dato per scontato che una donna biologica, diciamo, o comunque chi ha le capacità, io non so come dirlo, però fisiche per sostenere una gravidanza, cioè è dato per scontato che una persona sia quindi capace di affrontare, di gestire tutte le difficoltà, che poi non sono difficoltà, no? Cioè spesso forse, poi vabbè, io parlo senza essere senza aver mai avuto una gravidanza o figli, però mi immagino, no? E che appunto magari delle difficoltà, quelle che sono delle difficoltà oggettive, sono in realtà, cioè vengono date per scontato come se fossero la quotidianità dovuta di appunto una neomadre, non lo so. Può essere che è una tematica molto complessa, quindi nessuno vuole parlare dell'argomento che una persona si sente vulnerabile, no? Sono argomenti che ti fanno forse sentire dolore. Non vuoi parlare del tuo dolore? Sì. Pensi che riesci a fare tutto da sola? Nessuno parla della depressione postpartum, sì, delle cose. E sono comunque cose serie, ecco. Mi viene da dire adesso, avendo passato per e stando vivendo questa esperienza, appunto di tante azioni, processi, come se fosse un processo scontato. E non si vede le trasformazioni di quell'essere umano, intanto essere, che essere umano, cioè veramente già lì, appunto, parlando della depressione postparto, dei cosiddetti baby blues, è una fase di transizione, perché l'identità di per sé tua come persona cambia, cioè sei ancora magari la stessa Ivna, che ne so, il nome è lo stesso, però il tuo corpo ha un vissuto diverso, cioè, ed è una cosa che anche per me, per capirla, sto mettendo ancora del tempo, perché non ti senti, è strano da dire veramente, e magari non so, Maris può aiutare. Quando ti dicono, quando hai un figlio, cambia tutto, sì, cambia tutto, ma... È facile dire cambia tutto. Esatto, ma vero. Come? No? Esatto. Cioè questo processo di cambiamento, di proprio cambiare materia, perché eri tranquilla, stavi vivendo la tua vita e dal nulla, cioè ti succede un qualcosa che è esterno, però allo stesso tempo succede dentro di te. Quindi sì, io mi sono venuti già dei primi... viaggi, così per dire, di allo stesso tempo che era vicinissimo, sembrava che non ero io. Allora chi sono appunto un organo che sta generando un qualcosa? I miei sentimenti, le mie emozioni passano con me questa cosa. E anche una cosa che ho notato, e poi passo veramente la palla a Maris, diciamo, non c'è tanto spazio, o almeno la mia esperienza, insomma, o quello che ho rivendicato, quello che ho sentito di più, spazio per sognare, spazio per vivere quelle sensazioni. Esatto. No? Vai, Maris. Sì, sì. No, è proprio da quella mancanza di... fare le cose che facevi prima di avere un figlio, proprio da quella mancanza è nato il mio interesse verso tutte le tecniche, come trovare più tempo per me stessa, come trovare l'identità di me stessa oltre ad essere solo la mamma. Adesso mia figlia ha 2 anni, la tua è un po' più piccola, quindi credo che tu stai vivendo un momento ancora più difficile. Sì. Io ho già trovato, piano piano, ho trovato la mia strada, diciamo. Sì. Però guarda. Sì, all'inizio, le prime settimane sono state belle. Avevo tantissima energia... Però diciamo dopo 3 settimane ho cominciato a bere di nuovo caffè, perché durante la gravidanza ho smesso di bere caffè, però dopo 3 settimane ho detto no, non ce la faccio più, perché stare svegli di notte... Sì. No, e anche le aspettative, appunto, di come parlavamo prima, di cosa bere, cosa mangiare, quando, come... Esatto. Esatto, esatto. Durante la gravidanza puoi bere caffè o non puoi bere caffè? Beh, queste cose in realtà alla fine sembrano ridicole, sono piccole cose, ma può mandare in crisi una donna che vuole fare la scelta giusta, perché sì, hai la nuova responsabilità, far crescere un'altra persona. Che condivide il tuo stesso sangue, cioè è questa la cosa, l'ossigeno che respiri passa da te al feto, cioè è una cosa veramente, cioè, a volte non è concepibile proprio con riguardo a questo aspetto biologico, che dici ma se io sono, che ne so, no, non, oggi non volevo stare, non volevo essere incinta, e cresce a prescindere. Cioè, sì, non lo controlli, no, non è un braccio, è avviato, che muovi, cioè... il cemento. Capito? E questa è una cosa che diceva, come la sveglia, non vorrei che smettesse di piangere o di farmi sentire la nausea. No, non c'è una pausa. E questa è una cosa, non so, assurda. Sì, ad ascoltarvi mi viene proprio un pensiero proprio da appunto abbastanza ignorante un po' in materia, cioè ho letto per prepararmi per oggi, però sì, questo confronto con l'adolescenza è proprio forse una cosa che tutti possiamo capire, no? Perché sì, quando parliamo di maternità, cioè di una persona che è incinta, quello che si sente sono sempre i consigli pratici, cosa mangiare, cosa bere, cosa, che attività fisica fare. E si tralascia completamente la parte mentale e ormonale. E questo è veramente, da un certo punto di vista, strano, perché cioè, è una cosa così comune, non so come dire. Cioè, non è che la minoranza delle persone rimane incinta, non so come dire. Cioè, bisognerebbe avere un'attenzione, come c'è un'attenzione nei confronti degli adolescenti per aiutarli a vivere questa fase della loro vita, ci vorrebbe molto più attenzione, ma anche più conoscenza da parte degli altri, di chi non è incinta. Cioè, ci vorrebbe più attenzione verso le donne incinta, e non soltanto non bere più il caffè, non mangiare più il cioccolato, ma cioè, guardiamo forse quello che poi è più importante, che è l'aspetto mentale. Forse può essere anche che nel momento in cui rimani incinta diventi automaticamente una gestante, quasi come se fossi semplicemente un corpo, un oggetto, sì, no? Sì. Cioè, quindi della tua persona, della tua salute mentale o comunque più mentale non ci si cura più molto, se non del corpo, quindi della parte più fisica. Sì, perché devi mantenere, cioè l'attenzione va completamente sul feto, sì, cioè, e non più sulla persona. Sì. Cioè, tu devi... la medicina moderna, quello che cura solo il corpo, ti fa le analisi, vede che il feto sta crescendo, tutto sta andando bene. Puoi tornare a casa. Esatto, puoi tornare a casa. Sì. Durante le visite di solito non si chiede, ma tu stai bene, hai qualche problema? Come ti senti oggi, no? Esatto. E questa è una cosa che devo dare anche ragione a Gioia, cioè ti senti un oggetto in questo senso medico, che vai lì, fai le analisi, controlli, basta, puoi tornare a casa. E non ti chiedono come ti senti, come stai gestendo la situazione, la tua vita, cosa hai sognato oggi, perché anche questo, con tutti questi ormoni, sogni di più oppure senti più sensazioni di quando eri da sola, diciamo così, nello stesso tempo-spazio. E da lì la mia critica, perché questa me la sento proprio di dire, cioè come lo spazio per la cura di questa persona che curerà un'altra persona che sta già curando, biologicamente il tuo corpo sta già curando quello, cioè ti dà già l'energia a metà per te e per il feto, e quindi lì c'è già un processo di cura avviato, che poi appunto a dipendere dalla società, insomma, puoi dare più attenzione o meno. E io devo rivendicare questa cosa per tutte le mamme del mondo, penso. Cioè, è lo spazio che dovrebbe essere lasciato a quella donna o comunque a quel processo, diciamo così, nell'essere capito nel suo complesso, come una cosa che è semplice da un lato, insomma, succede ed è... come dire, succede, cose, come ha detto, sì. Mario, non ho mai visto una donna incinta per sempre, quindi tutti i bambini, no, noi tutti che stiamo qua abbiamo già passato questo processo con un'altra persona, quindi ecco, ma è vedere nel complesso la cosa, perché non, come società, secondo me non diamo attenzione alla cura, a questo momento di a volte anche prendere delle pause, di ascoltare se stesse. Maris... Io sono stata fortunata nel senso che durante la gravidanza avevo tutto il tempo per riposare, potevo fare quello che sentivo perché non lavoravo. E invece per le mamme che lavorano è sicuramente molto più difficile. La questione dei ormoni l'ho capita solo dopo, nel senso che molte volte non puoi decidere come ti senti oppure come il tuo atteggiamento com'è, perché semplicemente gli ormoni fanno quello che vogliono. Sì. Sì, mi aspetto appunto in un ambiente lavorativo sicuramente, esatto, questo dovrebbe essere capito, mm-hmm, e rispettato. Non è assolutamente semplice. Ad esempio, molte volte il periodo più difficile della gravidanza sono i primi 3 mesi. Quando hai le nausee, non stai bene, sei stanca, però non si vede ancora. Chiaro. Non vuoi dire che sei incinta perché è ancora una fase molto delicata. Quindi non puoi spiegare ai colleghi perché sei sempre stanca, perché sei di nuovo a casa, hai febbre, ma che cos'hai? Sì, sì, sì. Io appunto faccio tutte le mie lezioni online e ho una studentessa che praticamente da poco ha avuto un bambino e lei faceva... praticamente non ha preso la maternità prima di avere il bambino, quindi ha continuato a lavorare perché si lavorava da casa. Mm-hmm. Però comunque anche il connettersi online per riunioni, dovendo stare concentrata su uno schermo, le dava molto fastidio, cioè la rendeva molto stanca. E un po' in confidenza, anche durante le lezioni, mi diceva: ma i miei colleghi non capiscono, mi dicono: vabbè, sì, sei incinta, ma tanto sei a casa. Però, cioè, a parte che lei ha altri 2 bambini a monte, ma vabbè. Quindi, cioè, nel senso, ha altri bambini per casa, e in più è stancante anche stare davanti a un computer. A prescindere, cioè, infatti, figurati. Cioè. Quindi questa poca attenzione sempre legata al fisico. Cioè, visto che sei seduta davanti a un computer e non fai fatica a muoverti in ufficio, perché dovresti essere stanca? Questo era un po' quello che lei percepiva. E proprio in quel momento stava generando un prototipo di vita umana per il futuro. Cioè, lo stava lavorando! Esatto! Esatto! Sì, no, ci sono tantissime casistiche, eccetera, però io ci sto molto attenta personalmente, e adesso di recente anche mia cognata è rimasta, ha avuto una bambina, e io la prima domanda che le facevo: come stai tu? Non come sta, sì, la bambina. Tipo, poi quando la bimba va all'asilo diventi la mamma di... Ah, ciao, lei è la mamma di... No, cavolo. Qui si apre... È più facile ricordare un nome, il nome del bimbo, invece di il nome del bimbo è la mamma. Sì, sì, decisamente. E qui apriamo tutto un altro capitolo dell'identità, che vogliamo approfondire in questa puntata. Però forse mandiamo una canzone, così facciamo una piccola pausa, mm-hmm, e poi torniamo appunto a parlare di questa identità. Come non essere solo la mamma di... Esatto. Allora, proprio su questo tema, ragazze mie, cioè adesso vi sto per lanciare una bomba atomica. Giulia, questa è la canzone scoppiettante che non sa il titolo. Okay. E quindi non l'annuncio perché non ha bisogno di presentazione. No. Parla per sé questa canzone, è bellissima. Vabbè, bellissima, diciamo che è particolare, molto trash, quindi ci piace per ci questo. Ci piace proprio per questo. Ok, allora buon ascolto. Ok, forse c'è qualche problema, perché pare che non si senta, ma mi sembra un po' strano. Ok, vabbè, allora niente, ci riproveremo in un secondo momento. Giulia, ne mettiamo un'altra. No, abbiamo tipo pimpato l'hype a mille e poi soprattutto io sono la persona più curiosa del mondo e adesso dovrò aspettare. No, adesso ci proviamo, magari la ricerchiamo nel nostro archivio enorme di milioni di metri quadri che abbiamo qua accanto alla radio, che è proprio un atelier enorme con tutti i dischi, i vinili. Sto Adesso, cercando, Giovanni, esatto, un Ivna attimo, un sta già attimo. cercando il vinile e nel frattempo noi ascolteremo quest'altra chicca e ascolteremo Bitch e Madonna di Madonna. You're gonna love this. You can't touch this. 'Cause I'm a bad bitch. We hit the elevator right up to the rooftop. The bass is pumping, make me wanna screw the top off. Yeah, we'll be drinking and nobody's gonna stop us. And we'll be kissing anybody that's around us. I just wanna have fun tonight. Oh, this shit tonight. The Rihanna look flashing light. Allora, abbiamo capito qual era il problema. Ovviamente era colpa mia. È la tecnologia, esatto, è colpa della tecnologia, giustamente. E quindi riaccendiamo e rianimiamo gli animi, sì, l'hype a mille. Wow, okay. Grazie alla tecnologia. Quindi rullo di tamburi. Oh. E buon ascolto. Esiste questa canzone. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Uno Stato giusto si occupa del più debole. Giorgia! Giorgia! LGBT è il gioco. Giorgia! Omosessuale è il loro gioco. Giorgia! Cristiana! Giorgia! La proposta l'ha portata Fratelli d'Italia. Giorgia! LGBT è il gioco. Beh, io questa la dedico proprio alla nostra compagna ribelle Lady J, Jessica, che purtroppo non è qui con noi perché è da parenti, quindi la salutiamo, e visto che lei è la regina del trash, ho pensato bene di dedicarle questa canzone. Beh, mi hai veramente spaccata in due con questa canzone. Tipo, ci hai messo 2 minuti a prendere fiato e dire qualcosa. Era l'elemento sorpresa. Esatto. È stato bellissimo. Cioè, che, ecco... In una canzone... Si commenta da sola. Esatto. In una canzone abbiamo percorso tutto il femminismo. Il non femminismo. Il non femminismo. No, vabbè, scusa, se sei bianca, cristiana e... cos'era l'altro? Donna, biologica. Madre naturale, e Giorgia, vai bene. E ti chiami Giorgia. Vai bene. Va tutto bene. Invece esci da queste 3 categorie, non vai più bene. Ne abbiamo un po' di razzismo, una spolverata di sessismo, poi un po' di... Uno spruzzino così da niente. Tipo la ricetta della strega cattiva. Esatto. No, grazie Gioia per questa perla incredibile. No, ritorniamo appunto introdotti da questa canzone, al contrario però, andiamo a parlare invece di tutte le identità possibili, no? Come si fa, lo chiedo a voi, come si fa a non essere solo la mamma di... Ecco. Come? Eh sì. Maris, questo chi, penso... Chi mi risponde? Infatti sono ancora sono con Giorgia e quindi devo superare sentendo Maris. Prima devi capire che hai questo problema. Noi con Ibra avevamo capito che non si può stare solo la mamma. Sì. Esatto. Io parlo dalla mia esperienza personale e ho sentito ad un certo momento, quando mia figlia aveva 2 mesi più o meno, che ero sempre stanca, quindi non riuscivo a gestire le mie emozioni, mi arrabbiavo molto facilmente. Non volevo contatti con altre persone. Non lo so se sono queste le cose che capitano anche alle altre mamme qui. Ipna Ci fa segno di siamo. sì. Esatto. Quindi. Quindi dimmi tu se anche tu ti senti così. No, guarda, infatti, diciamo, mi sono preparata per la gravidanza, ma fino a una certa, per dire, non per la maternità, e questo già è una differenza fondamentale, perché il corso preparto, appunto, ti prepara per il parto e per un po' io appunto il mio corso preparto è stato bello e lì un po' mi prendevo anche il mio tempo, ho avuto fortuna in questo senso. Da un altro lato gli ormoni e pazzie varie perché veramente ti alteri e non sai nemmeno perché ti sei alterata. Cioè, oppure perché una cosa che non ti piaceva prima ti piace adesso e perché una cosa che ti piaceva prima non, cioè, e diventi confusionaria. Ed è una cosa che non mi aspettavo come essere umano, ecco, molto sinceramente e molto umilmente. Non mi aspettavo cambiamenti così profondi, strutturalmente parlando, perché ero diventata una balena, ma una balena nel senso che mi sentivo acquatica, mi sentivo di nuotare, ero in un limbo, non ero nella realtà, ero. Non lo so, appunto, stavo nuotando e c'era un altro pesciolino assieme. Era come la descrizione metaforica di come mi sentivo. No, ovviamente poi ci sono giorni più felici, poi altri Sì. giorni più difficili. Non è tutto nero, almeno per me è stato così. E trovare l'identità, trovare tempo per te stessa. Come si può fare? Aiutaci tu. Aiuto. Aiuto, Maris, aiuto. La prima cosa da sapere è che in realtà tutto quello è nascosto nella nostra testa, no? E la parte più difficile della maternità è mentale, la parte di cui non si parla Sì, e che dobbiamo scoprire noi stessi. Purtroppo tante donne pensano che i loro problemi non siano abbastanza grandi per cercare aiuto. Vogliamo risolverli da soli. Almeno a me sembra così. E no, guarda, molto mi ha detto poi. vero. Sì, esatto, dimmi. No, dico, questa cosa di fare da solo, ho fatto i miei ragionamenti anche dopo il nostro incontro per la puntata, no? È un po' quello che ci dice la società contemporanea, no? Come siamo arrivati qua, che io penso di poter fare le cose da sole o da soli, insomma, non pensando a una serie di persone che stanno accanto a me e non avendo magari nemmeno il coraggio o comunque pen il pensiero di chiedere aiuto. Cioè, in passato, quando la maternità era una delle uniche cose che dava valore alla figura della donna biologica e dentro la società con un ruolo specifico, avevi un altro tipo di declinazione di quella maternità. Oggigiorno, nel presente, abbiamo un nuovo tipo di maternità perché abbiamo nuove mame, cioè un nuovo tempo che si afferma. Quindi questo eccesso di individualismo e anche tutti questi, il corso preparto, per esempio, non esisteva prima perché avevi una comunità che ti aiutava nel gestire i tuoi dubbi, il tuo tempo, la casa di per sé, che parlandoci anche molto sul serio, sono delle tematiche che magari prima della maternità di per sé non ti parlano tanto, cioè. se hai una vita, non, a volte magari non pensi esattamente fare il bucato come la tua prima cosa che ti svegli al mattino e fare, no? Però se cominci a dover gestire te stessa con, nell'assenza di questa comunità, di persone che ti stiano accanto, di nuovo ricadono sulla figura della donna, in questo senso, cioè, perché è stato ieri, no? Storicamente era quello che un'altra donna faceva per te. Ma Ivna, scusami, ma tu a che tempo ti riferisci più o meno? Perché se devo pensare all'Ottocento, cioè comunque quella comunità di cui tu parli, a me fa venire in mente in realtà alla madre, cioè alla nonna magari del nascituro, della nascitura, e alla zia o che cavolo ne so io, comunque sì, sempre sì, figure femminili vicino alla persona che sta... che è rimasta incinta e che avrà, cioè, porta in grembo la creatura, ecco. Sì, sì. Penso a questo tipo di comunità, però non è una comunità, è sempre una delega alla figura femminile di tutta questa parte di cura e di accudimento nei confronti della gestante. Allora, io mi riferisco, diciamo, facendo diciamo, alle società occidentali post seconda guerra mondiale, cioè come questo lavoro appunto di cura che in una, prima della seconda guerra era di base legato alla figura della donna di per sé, no? Okay. E quindi avevi tante donne o anche tante figure, non solo di donne, a dipendere, per esempio, e mio papà mi sta aiutando in questo momento per dire, no? E sta proprio tenendo mia figlia mentre io faccio la doccia o leggo un libro, mi preparo per la puntata, cioè, e lì queste figure con delle famiglie esistevano prima. Adesso con la nostra società ipercontemporanea in cui l'individualismo è l'individuo, per non dire l'individualismo, l'individuo è lasciato stare, non nel senso del giudizio sociale, no? E questo ancora non siamo riuscite, ma è lasciato solo. Esatto. E quindi nel momento in cui hai bisogno della cura, perché qua stiamo parlando, secondo me, del lavoro proprio di cura di te stessa, di questo altro essere che sta venendo, e anche del tuo ambiente. Ma qua non sto parlando del appunto lavoro di casa. Se fosse un uomo a partorire, avrebbe bisogno che qualcuno stesse accanto a lui. E nel caso, facendo la metafora per l'uomo, è molto, tra virgolette, più semplice da capire questa cosa. E anche nel corso preparto c'è stato una... Se fosse l'uomo a partorire, e c'è stato questo video che un po', da un lato, parla della ipermedicalizzazione della gravidanza, del parto, della figura della donna come un oggetto, come un corpo che va a prescindere, non ha sentimenti, non ha sensi di colpa, non ha emozioni, non ha ormoni su e giù, no? E parlando di come gestire, e appunto Maris, vieni con noi, perché lì sembra che tutti noi, ma parlo qualsiasi persona, ha bisogno di capire che anche se hai un super lavoro, anche se hai una vita attiva, cioè dobbiamo reimparare a sentire noi stessi, no? Come stiamo in quella giornata, se sto lavorando di troppo o di meno, cioè proprio questo contatto vicinissimo, e questo ho imparato con la maternità, cioè è una cosa che ho sempre predicato, no? La cura verso se stessi, però ho capito molto più profondamente quando dovevo curarmi di qualcun altro, e quindi la domanda è: chi si cura di me? E infatti la cosa migliore che puoi fare per aiutare gli altri e prendere cura di te stessa. Però con una bimba piccola a casa è difficile trovare tempo. Quindi io ho imparato di chiedere aiuto. E si dice anche quando la mamma finalmente chiede aiuto, vuole dire che in realtà ne aveva bisogno ieri, quindi proprio al limite, all'ultimo, quando stai già per crollare o sei già crollata. È vero. Quindi io sentivo, come hai detto, il senso di colpa, perché non volevo essere la mamma che urla per mia figlia, urla al mio partner che sempre un disastro a casa. Quindi ho deciso di lavorare su me stessa per trovare, perché avevo proprio bisogno di spazio intorno a me. che non avevo con un neonata appiccicata su di me, perché all'inizio loro vogliono molto, molte coccole. Io ho dormito con mia figlia per comodità, abbiamo praticato, come dire, co-sleeping, perché era più facile per me. E ad un certo punto sentivo proprio che non volevo più essere toccata. In inglese lo dicono overtouched o qualcosa del genere. È proprio un termine, un fenomeno che capita molto spesso alle mamme. Non so se l'hai sentito, Ivna. No, non avevo No? sentito questa espressione, ma mi Il viene. sentimento, Sì, della parola intendo. troppo, cioè è arrivato un Sì, troppo, esatto. perché appunto siamo persone che vivono il contemporaneo, quindi cioè, a parte l'essere madre, siamo anche persone, e sembra che di dover dire questa cosa, no? Sì. Quindi ho cominciato a cercare tempo per stare da sola. Poi magari anche come carattere sono una persona che vuole stare più da sola, dipende molto da persone più introverse o estroverse. E quindi ho cominciato a cercare modi per trovare tempo. Mio compagno lavora tutto il giorno, potevo chiedere aiuto solo di sera. Non ho famiglia vicino a me che può prendere cura. Ho trovato una bellissima soluzione con un'altra mamma straniera. Anche lei aveva una figlia piccola e quindi ci siamo aiutate a vicenda. Una volta veniva sua figlia da me, l'altra volta io lasciavo mia figlia da lei. Quindi questo era un modo. Alla fine, quando la mamma capisce che ha bisogno di spazio, dopo è tutto una gestione di tempo che non è facile perché ad un canto vuoi lasciare la figlia. Io dico figlia perché nel mio caso è una femmina, dico il bimbo, però dall'altro canto non vuoi lasciarlo. E è strano perché hai bisogno di tempo per te stessa, ma non vuoi lasciare. Oppure diventa troppo difficile, ma come lascio io allatto? Ma in queste 3 ore come faccio? Devo lasciare qualcosa da mangiare? Diventa più complicato lasciare il figlio che tenerlo, però hai bisogno di tempo per te stessa. Eh sì, e lì diciamo, cominciano le dicotomie di questo essere, appunto, la parola secondo me che abbiamo usato di più è stato strano, questo essere strano che è la madre, che io ho trovato anche riguardo a questo, no? E questo introduce un testo che dovremo leggervi dalla nostra inviata speciale da Napoli, ok, l'introduzione lei. Poi il tuo testo. Questa dicotomia, appunto, di parlare di mille cose allo stesso tempo, gestire mille tempi allo stesso tempo, è anche una dicotomia, dentro l'accademia o comunque dentro lo stereotipo della concettualizzazione della madre. E lei, è una psichiatra, si chiama Stella Weldon, ha scritto il libro Mother, Madonna, Whore, che sarebbe Madre, Madonna santificata. Whore puttana, la idealizzazione e la denigrazione Denigrazione. della maternità. Cioè, io sono rimasta solo col nome di questo libro e ho detto voglio leggerlo perché sembra che la tua figura ricade sempre in uno stereotipo di qualcosa che qualcuno dice su di te. Non ti puoi autonarrare, non puoi avere una sessualità, non puoi avere dei desideri, o comunque non è che non puoi avere, anche nei prodotti culturali che vediamo e internalizziamo, non c'è questa possibilità, c'è come se fosse un essere piatto. E lì accettiamo anche dagli ascoltatori, ascoltatrici, ascolta tutti, tutto, no, delle dritte per prodotti, insomma, film che possano raccontarci, se avete delle, delle proposte, veramente condividiamo, perché abbiamo bisogno di creare una nuova visione sulla, su questo essere strano madre. Una pluralità soprattutto, no? Eh sì. Bisogna sempre essere, sì, a volte proprio ci si dimentica dell'esistenza della, della figura dietro la mamma, cioè è proprio solo, solo sei mamma, va bene, ok, sei mamma, mm-hmm. cosa pretendi, cioè cosa, cosa ti aspetti, cioè vuoi anche, non so, vuoi anche avere tempo di leggere un libro, ma scusa, ma sei mamma, cioè, oppure Vuoi anche uscire con i tuoi amici a berti una birra? Ma scusa, ma sei mamma, no? Questo ci è successo qua con un'amica, che lei è stata appunto, lei ci tiene molto a questa sua, sua individualità, e lei molto spesso esce con noi, lasciando la bambina o al marito oppure a babysitter, o appunto anche lei come te, Maris, ha trovato una soluzione di aiuto, di mutuo supporto. E ogni tanto ci dice, ma sì, quando io ho detto che volevo smettere di allattare nel tempo giusto perché volevo tornare a bere birra, sono stata additata come un mostro perché mettevo davanti il mio interesse personale a quello della bambina. Che comunque non dire neanche che sia un interesse individuale, cioè o meglio, non è individualismo quello, cioè è prendersi cura di se stessi. Sì, sì, no, però lei è stata additata come, certo. Ma scusa, ma non puoi, ma per una birra smetti di allattare? Ho detto, ma questo fa parte di chi sono io, cioè se a me piace andare al bar a bere la birra con le mie amiche, perché non posso farlo? Cioè, non e devo vedi, rinunciare. Quindi i consigli che riceviamo durante la gravidanza, parto, arrivano fino a anni dopo. Dopo. Continuano all'infinito, cioè non... E proprio per quello bisogna prendere tempo per te stessa, per essere sicura di te stessa e ascoltare questi consigli, ma poi fare quello che vuoi tu. Perché il problema è che tante donne non hanno tutta questa sicurezza in se stessa e quindi hanno paura di sbagliare oppure dare un'impressione sbagliata. Però non fanno quello che vorrebbero, quindi bisogna avere fiducia di te stessa. Sì, e forse proprio su questo vorrei andare il testo proposto dalla nostra inviata speciale, che purtroppo non poteva essere qui ma ha mandato un audio. Sì, sto cercando di metterlo... tecnologie. Perché appunto a proposito, cioè l'identità può essere qualsiasi. Allora aspetta, sì. Adesso sto provando, scusatemi, da quest'altro. Siamo sempre della suspense. E... questa è la bella della diretta. Esatto. No, allora non sto riuscendo a metterlo dal programma perché l'ho scaricato. Cioè ho scaricato l'audio, quindi adesso sto riaprendo WhatsApp e vediamo se riusciamo a sentirlo da lì. Dovrebbe funzionare. Quindi metto una canzone, balliamo, cantiamo. Balliamo un pochettino e poi sentiamo, okay. La nostra. Che qua è lento. Va bene. E credo che questa sia una canzone che ha proposto Maris. Si chiama Pass Pass. Ah sì. Ok, quindi ed è di Trad Attack, giusto? Mm-hmm. Ok. Sì, sì. E quindi vabbè. È un gruppo estone. Ok. In realtà è una canzone, un folk, quindi una canzone tradizionale, ma loro non l'hanno messo in una nota moderna. Ah, oh, okay. Bellissimo. Allora, buon ascolto. Ha ba da hella ba da nigga, ma di ba ha ba da. Eccoci. Ma allora adesso, mentre stavamo ascoltando la canzone Pass Pass di Third Attack, spero di averlo pronunciato bene di nuovo, e Maris, tu ci stavi raccontando della storia di questa cantante. Sì, giusto una curiosità che mi è venuta in mente, che poco tempo fa ho ascoltato il podcast in cui la cantante ha raccontato che quando ha avuto prima figlia, per figlio, scusa, non mi ricordo, il bimbo, ha continuato a lavorare sodo anche con il gruppo. E ha dormito pochissimo, tipo 4 ore a notte. E dopodiché, dopo un anno, non ce la faceva più. Ci credo, caspita. Poi resistere anche un anno intero esatto. In questi ritmi. E di seguito, ovviamente, purtroppo era depressa, non riusciva più a fare niente per 3 giorni, dopodiché comunque è venuta fuori. Adesso sta bene, sta lavorando, oltre a fare la musica, adesso lavora come coach, quindi lavora aiuta altre donne. Che bello! Sì, come crescita personale, sì. Beh, quindi dire che è molto diffuso e constatato che il più delle volte il lavoro non rispetta i tempi e le tempistiche della gestante poi del postparto e di tutta la prima fase, i primi mesi di nascita. È vero. Sì, ha raccontato che non voleva rinunciare a niente per il figlio, quindi voleva fare proprio tutto, figlio, famiglia, lavoro, musica, non voleva rinunciare ai concerti. Chiaro. Poi ha imparato. No, infatti mi viene da dire, proprio perché appunto pensiamo di non essere cambiate, ecco, ma secondo me è veramente una grande cosa da capire. C'è un cambiamento, esiste, è fisico, è tacito, è davanti a te e dentro di te, no? E penso che appunto il lavoro, ma in generale, non solo cioè per le mamme sicuramente, ma per gli esseri umani, è come se fossimo considerati delle macchine che devono rispondere a delle attività, a una giornata che non corrisponde nemmeno ai cicli vitali. Cioè, ma per dire, ragazzi, è un po' un mio pallino pure, verso l'inverno dovevamo lavorare di meno, c'è meno sole, c'è meno caldo, cioè il corpo fa un po' in ibernazione, no? Sì, sono i cicli della vita. Sì. Dipende dalla luna, della stagione, tutto quanto. Volevo aggiungere un'ultima cosa. Certo. Abbiamo detto come trovare tempo libero, ma vi è mai capitato, trovi tempo libero, hai un'oretta libera, ma poi non sai che cosa fare? Sì. Perché sì. sei così abituata a non averlo, e quindi alla fine trovi un'oretta libera e non so, la passi scrollando su Instagram o facendo delle cose che non ti danno nessun beneficio. Sicuramente, anche senza essere mamme. Quindi il mio ultimo consiglio, anche se dico di non ascoltare i consigli, però io li do lo stesso, sarebbe quello di prendere 5 minuti e decidere qual è veramente questa attività per te stessa. Un'oretta forse è un po' esagerata per una neomamma, diciamo, quando avrai 15 minuti per te stessa, qual è questa attività che veramente ti dà più energia, che ti fa più calma, che ti porta più allegria? E scrivile su un foglio, così la prossima volta, quando hai questo tempo, sei pronta, quindi preparati per questo momento prezioso. Mi sembra comunque un ottimo consiglio, cioè non mi sembra un consiglio campato per aria, ma mi sembra un consiglio vissuto e decisamente profondo, e cioè, si capisce che viene da un tuo vissuto, cioè viene da una cosa che hai provato in prima persona. Quindi non è il consiglio della persona random che dice non bere caffè, ma è un consiglio di una persona che ha vissuto determinate cose dal punto di vista anche mentale, che quindi poi è arrivata a questa conclusione. Quindi è un consiglio secondo me molto, molto utile, molto importante. Sì. E può essere molto individuale, quindi io personalmente faccio cose tranquille, ma magari un'altra persona vuole leggere qualche pagina di un libro, ascoltare due canzoni. Ascoltare il tuo podcast. Ascoltare il mio podcast. Sì, facciamo un po' di pubblicità. No, Maresa ha un podcast molto, molto bello, dove appunto parla di questi argomenti in inglese. Giusto? Sì, ultimamente non ho pubblicato nuovi episodi, però sì, sto parlando della... come gestire il tempo più in dettaglio, sì. Come trovare tempo per te stessa, come essere una mamma più serena, perché tutti sappiamo che la mamma felice vuole dire anche bimbo felice, quindi tutto comincia da te stessa. Sì, e questo penso sia centrale. Si chiama Mommy's Time Matter, giusto? Yeah. Mommy time matters. E no, è sicuramente importante essere concentrate su se stesse. Esatto. Non perdersi. Esatto, sfottare la mente di tutte le follie e trovare 15 minuti per riequilibrarti, andare avanti più focalizzate. Sicuramente. Grazie per queste tue parole. Grazie a voi. Grazie per queste tue parole. Ivna, vuoi aggiungere qualche ultimo pensiero? No, guarda, sono veramente estasiata da quello che ha detto Maris, perché non sembra ovvio, ma ci sono delle cose veramente semplici che fanno tutta la differenza per questa serenità, per questo... Ed è trovare un po' se stessa in questi 15 minuti, come ha detto lei l'altra volta, mi ricordo, Maris, voluti, hai tutta la testa consapevole. Esatto, la consapevolezza secondo me è la cosa più importante. Grazie, Maris. Perché il tempo passa lo stesso, però sì. Se... è la qualità del tempo che cambia. Esatto, brava. Sì. Sicuramente. Bene, ascoltiamo il video di Maya. Ascoltiamo il testo. L'audio. Ascoltiamo il testo di Maya, è preso da un libro, Devenir Perra, di Ziga. È un testo deciso, oserei dire, e che ci aiuta un po' a tirare le fila, no? Dal punto di vista identitario, per capire che non c'è un'identità giusta, ma come è importante trovare il tempo, trovare il nostro tempo voluto per noi stessi, è importante anche riconoscere la persona che noi vogliamo essere, accettarla. E onorarla, mi viene da dire. Le mamme sexy, tratto da Diventare Cagna, di Zia Arziga. Se c'è un simbolico sociale incompatibile con la puttana è la madre. Appartengono a fasi opposte della femminilità, sebbene, come in qualsiasi altra professione, molte lavoratrici sessuali abbiano deciso di essere madri. Ma la maternità è la quintessenza della condizione di sposa, è la funzione che fonda il valore delle donne oneste nell'ordine eteropatriarcale. Le cagne che decidono di continuare a manifestare il proprio desiderio dopo aver partorito provocano un cortocircuito nell'immaginario della femminilità. Non si fanno addomesticare dai valori associati tradizionalmente alla loro nuova condizione di madre e reinventano la maternità. «Non fare nessun favore a mia figlia smettendo di essere quello che sono», mi ha detto Sara. Ellen mi ha parlato molto di questo. Fino alla maternità la gente ti lascia stare. Dopo essere diventata madre, allora non ti perdonano se continui ad essere puttana. Non puoi metterti la minigonna, non puoi uscire da sola, non puoi andare in giro. Questa è stata una disgrazia per me. Socialmente già non ne potevo più dell'eterosessualità, né di tutto quello che mi si proponeva. Senti che tutti gli occhi ti osservano, ti controllano secondo i precetti della morale dominante, sperano che con la maternità cambi. Ma io invece sono diventata più puttana. Mi sono riaffermata ancora di più per quello che ero. Per me è stata una perdita di innocenza. Prima ero puttana in modo più selvaggio e incosciente. Dopo essere diventata madre... No, cosa è successo? No, scusate, ascoltatori e ascoltatrici, è successo qualcosa? Ok. Da sola, non puoi andare in giro. Questa è stata una disgrazia per me. Socialmente già non ne potevo più dell'eterosessualità, né di tutto quello che mi si proponeva. Senti che tutti gli occhi ti osservano, ti controllano secondo i precetti della morale dominante, sperano che con la maternità cambi. Ma io invece sono diventata più puttana. Mi sono riaffermata ancora di più per quello che ero. Per me è stata una perdita di innocenza. Prima ero puttana in modo più selvaggio e incosciente. Dopo essere diventata madre, quando socialmente si esigeva che fossi per bene, ho capito che essere puttana era la mia scelta. Ed eccoci, le scelte di ogni madre. Sì. Ivna non ha parole. Non ha più parole per... No, perché davvero mi sono... cioè, immedesimata tantissimo alle parole, per, non appunto per la mia professione, ma a questo giudizio morale sulle scelte di singolari di ogni madre. Poi, appunto, possiamo anche parlare in un'altra puntata anche delle differenze tra razza, classe e genere, delle nuove dinamiche e anche di famiglie poliamorose. Cioè, veramente c'è tanto da dire, ma... penso che lì, di nuovo, siccome le rappresentazioni della figura, la rappresentazione della figura della madre non corrisponde a una diversità di questi soggetti che occupano quella funzione lì, perché alla fine diventa anche una funzione sociale, in tutti gli studi delle scienze sociali c'è questa vertente della funzione, del ruolo sociale che acquisisce quella figura lì. Però, di nuovo, anche per tornare al testo, quello che mi rappresenta veramente è proprio il desiderio, è il mantenere il simbolico, non appunto, come sto dicendo, non della professione, ma del proprio corpo, delle proprie scelte e della consapevolezza di questa scelta. Io pure ero più innocente. Sembra che ho attraversato un velo della carne che c'era dentro di me nel diventare madre al momento del parto, poi lì si apre veramente un mondo, letteralmente. Però è quello che appunto sentivo prima di essere me stessa, cioè sono quella che sono, e questo anche voglio che siano le mie scelte sulla mia maternità, su come io vedo me stessa, su come voglio afferrare me stessa, e da lì mi sento moltissimo rappresentata, ecco. Sì, penso anche che nell'audio che hai letto, cioè di Maya, sia anche molto chiara questa, cioè sia molto chiaramente rappresentata quella che è ancora tutt'oggi una dicotomia tra della donna. La donna è o è santa, madonna, madre, oppure è puttana. E in questa dicotomia ci rientra qualsiasi cosa, perché poi qualsiasi comportamento, pensiero, atteggiamento è giudicato nell'uno o nell'altro modo. Quindi non è abbastanza madre una donna, come l'amica Giulia di cui hai raccontato, che vuole finire di allattare quindi il proprio figlio, figlia, nei perché tempi vuole. che lei vuole. Desidera, perché preferi, cioè vuole ricominciare a prendersi in mano una vita che va al di là dell'altra persona con cui si è in relazione, no? Cioè proprio la propria sfera. E quindi questo non va bene, perché non rientra completamente, pienamente nell'idea di madre santa e dedicata. Esatto. E dedicata al 100% al proprio figlio, alla propria figlia. E qui rientra poi tutto il discorso che faceva Maris, secondo me, perché se tu osi prenderti 15 minuti per fare qualcosa che interessa a te, soltanto a te, puoi venire giudicata perché non stai dedicando il tuo intero tempo al tuo bambino, alla tua bambina. E quindi sei una cattiva madre per questo motivo. E quindi questo è proprio, cioè, contro il diritto all'autodeterminazione in un modo clamoroso, penso. Cioè, il diritto di scelta su di sé, sul proprio corpo, sulle proprie relazioni. Sul proprio tempo anche. Sul proprio tempo, come dedicarlo, quanto e come. E perché bisogna rispecchiare una chissà quale forma di astratta. Immaginazione esatto, che inesistente poi, inesistente, perché chiaramente, cioè, sono delle categorie esemplificatorie, quindi nessuno rientra in queste, però hanno una forza potentissima, perché ci influenza, ci fa star male nel giudizio verso se stessi e verso gli altri, perché c'è anche l'autogiudizio. Mm-hmm. E questo chiaramente è un discorso, certo, che ci azzecca benissimo alla puntata, che però trascende anche da questo argomento. E quindi secondo me questo audio è stato potente per questo. Sì. Beh, direi che abbiamo aperto tantissimi altri spunti di riflessione, e sicuramente anche come, cioè, chi ci sta ascoltando, se vuole contribuire anche alla fine della puntata, ovviamente mandarci un messaggio esprimendo preferenze magari su alcune tematiche che vuole approfondire, noi ovviamente siamo ben disponibili a farlo. A fine puntata ricordiamo i canali, adesso che è utile. No, comunque lo ribadiamo, giusto perché entri nelle testoline di tutti e tutte e tutto. E potete riascoltare la puntata di oggi sul sito di ZAM, www.zam-milano.it, e oppure ci saranno comunque i link di riferimento ai podcast anche sul nostro canale Instagram, le /ribelli/ZAM, o anche su Facebook, la pagina della radio, Radio Z-AM. E niente, quindi questi sono i canali. È stato veramente interessante anche preparare la puntata. Io sono molto, cioè, da non mamma, sono molto contenta di aver ascoltato e imparato tantissime, tantissime cose. Ringrazio tantissimo Maris. Grazie a voi. Grazie tante. Averci dedicato questo lunghissimo tanto tempo. Sì, grazie. Sì. Quindi grazie mille, veramente. Terremo preziosi, il tuo consiglio molto prezioso, ecco, anche da non mamma lo tengo prezioso. E non solo. Esatto. Alle mamme non solo, esattamente. Perché alla fine il tempo lo devono gestire tutti quanti, non solo le mamme. Esatto. Sì. No, grazie mille Maris, perché ci sono delle cose che devono essere dette e ridette, perché sono troppo scontate e vivendo questa esperienza capisci e dici, ma io devo rivendicare questa cosa. Sì, sai, ogni giorno nascono quasi 400.000 bambini, 385.000 bambini al mondo, e ancora dovrebbe essere una cosa più naturale, invece vedi quanti segreti ancora. Esatto. Vero. Esatto. Sì, siamo un po' spompate adesso. Sentiamo. Comunque devo dire che non è stato, cioè, siamo state brave. Cioè, siamo riuscite a organizzare bene il nostro tempo, secondo me. E di solito le nostre puntate durano 2 ore, 2 ore e mezza, dall'ora preventivata. Quindi questa volta, dai, più o meno ci siamo. Ci siamo. Sì. Ci regali ancora qualche canzone e noi vi salutiamo, insomma, vi lasciamo con un po' di musica. Grazie per averci ascoltate. Grazie, grazie, belli. Grazie, grazie, grazie. Yo bailé la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. La bailan en Santa Marta y la baila toda la zona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. Y la bailan en mi tierra y la Yaika, yaika, yaika. We'll be right back.